I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Torniamo a parlare di spread, ma va precisato che ancora il livello della differenza tra quanto rende il nostro BTP a 10 anni e quanto rende il riferimento che tutti utilizziamo in quanto più affidabile, ossia quello tedesco, è una differenza non così preoccupante. Però c'è un però. Ieri è tornato a 157 punti lo spread italiano, ossia a livello più alto da giugno scorso in piena Brexit, e il rendimento del nostro BTP a 10 anni è tornato all'1,75%, ossia il livello più alto dello scorso febbraio. Nelle settimane drammatiche del novembre del 2011 imparammo a capire che lo spread è il termometro su cui i mercati si basano per valutare l'affidabilità di un paese, e vale la pena ricordare che allora il nostro spread superò i 300, 400 e anche 500 punti. Non siamo quindi di fronte a un livello preoccupante, ma il segnale non va sottovalutato. I motivi che hanno portato a un lento ma graduale aumento del nostro spread si chiamano incertezza politica sull'esito del voto del referendum, situazione del Monte dei Paschi di Siena con il rischio che diventi un danno sistemico, e alcuni citano anche le recenti tensioni tra Bruxelles e Roma per quello che riguarda la manovra di bilancio. In realtà dovrebbe preoccuparci di più l'analisi di quello che è avvenuto in Spagna. La Spagna, anche quando era senza un governo, registrava uno spread più basso del nostro, e ieri la differenza si è ulteriormente ampliata, visto che poi il governo nel frattempo in Spagna è arrivato. Il paese iberico viene ritenuto più affidabile sia sul fronte della crescita economica che dell'indebitamento, e non è un caso quindi che lo spread spagnolo sia sceso a 110 punti, ossia 50 punti più basso del nostro. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Nel 2015 il valore aggiunto dell'intera economia ha registrato una crescita dello 0,9% rispetto all'anno precedente. La produttività del lavoro è diminuita dello 0,3% e quella del capitale è aumentata dell'1,9%. Scusate la freddezza delle cifre, ma questo significa che l'Italia sta lentamente aumentando gli investimenti in innovazione e che il lavoro ancora soffre perché è poco e mal distribuito. Ciò che colpisce nei dati diffusi oggi dall'Istat sull'andamento della produttività negli ultimi 20 anni è proprio la fotografia di un paese rallentato e fermo sui suoi errori. Il più 0,3% dell'aumento di produttività del lavoro medio annuo si confronta con un più 1,6% medio dell'Europa, su cui sono in linea ad esempio Germania, Francia e Regno Unito. E anche la Spagna ha una dinamica doppia rispetto a quella dell'Italia, con un più 0,6%, nonostante Madrid sia tra le ultime posizioni. È andata bene nel periodo 99-2013, quando la produttività italiana viaggiava più 1,1%, poi nel 2015 il dato si è invertito e l'anno scorso si è registrato addirittura un meno 0,3%. Anche la produttività del capitale ha avuto un andamento calante, nonostante siano aumentati gli investimenti in tecnologie, soprattutto negli ultimi 2 anni. Analizzando i settori, nel 2015 la produttività è diminuita fortemente nei servizi di informazione e comunicazione, meno 5,3%, nelle attività artistiche di intrattenimento e degli altri servizi, meno 5,2%. Il dato in più forte controtendenza viene dall'industria, che ha segnato invece un aumento dell'1,3%. E questo dimostra ancora una volta che bisogna ripartire da qui se si vuole rimettere in piedi l'Italia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.